Un buongiorno a Gianluca Patrizi e Anna Messere di Checkpoint Charlie. Buongiorno ragazzi, benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, finalmente riaprono le porte del Checkpoint Charlie con tantissimi eventi tra mostre e workshop. Quando si inizia, ragazzi? Allora, iniziamo questo venerdì 2 luglio dalle 18 per il primo evento che sarà una mostra collettiva che si chiama Notturna. Questo calendario di luglio molto molto intenso, abbiamo scelto di alternare i workshop, i laboratori su prenotazione, a due mostre, una collettiva e una personale, e un incontro di un libro. Vogliamo iniziare la rassegna con un evento di apertura del Charlie dopo la pandemia, perché è stato chiuso ovviamente per all'incirca un anno e mezzo. In questo anno e mezzo abbiamo ristrutturato e sono cambiate molte cose all'interno di questo spazio. Ci sono nuovi personaggi, nuovi artisti e artiste che fanno parte del Charlie, della grande famiglia Charlie adesso, e quindi dato che dobbiamo anche lasciare uno spazio per prenderne uno nuovo che effettivamente è qua di fronte, abbiamo pensato di fare una mostra collettiva con il tema della notte, dato che adesso siamo liberi di uscire di notte. Ci saranno anche tantissimi workshop, come raccontavate poco fa voi, ce ne dite giusto qualcuno? Allora, abbiamo diverse tipologie. Ad esempio, iniziamo il 4 luglio con un workshop da una proposta esterna che si occuperà di creazione di pedaline sonore e touch synth. Abbiamo workshop di ceramica, abbiamo workshop di stampa sull'linoleum in acquaforte e un workshop formativo a fine luglio sul movimento e sul corpo. Come si può partecipare, ragazzi, a tutti questi eventi? Bisogna iscriversi? Bisogna prenotarsi? Sì, sui nostri canali social, Facebook e Instagram, abbiamo tutte le indicazioni, quindi ogni corso ha il proprio contatto mail e telefonico a cui rivolgersi per chiarimenti. Ricordiamo che comunque noi siamo un circolo ARCI e quindi l'ingresso è consentito alle persone che hanno tessera, e ricordando anche che la tessera comunque la possiamo fare anche qui, anche per quanto riguarda tutti gli eventi. Certo, perfetto. Lo dicevate anche all'inizio dell'intervista, Checkpoint Charlie, come tantissime altre realtà culturali, sono state purtroppo chiuse durante questo periodo di pandemia. Quanto è importante per voi tornare con eventi in presenza? Ma moltissimo, noi siamo stati chiusi, ma comunque eravamo qui e abbiamo lavorato per quest'anno, anno e mezzo che abbiamo passato a porte chiuse. Allo stesso tempo abbiamo avuto modo di progettare, abbiamo un laboratorio di fotografia analogica, abbiamo tanti nuovi linguaggi che ecco, vorremmo condividere, quindi avere questo primo evento venerdì sarà interessante anche per noi e per il pubblico. Vi volevo chiedere, ragazzi, le mostre proseguiranno nel tempo o sono, come dire, a tempo limitato, ecco? Sì, per il momento abbiamo fatto una programmazione estiva che terminerà a fine luglio, ma poi abbiamo in programma un altro calendario di mostre, che abbiamo chiamato Solo, da fare, entro dicembre. E le mostre sono tante e siamo sempre cioè adesso non sappiamo dirvi realmente cosa ci sarà, sappiamo che sicuramente ce ne saranno tante perché abbiamo tanta voglia di fare e di proporci verso l'esterno, data ovviamente tutta questa chiusura che c'è stata e tutto il lavoro che abbiamo fatto qui. Vogliamo condividere lo spazio con la città, con la Bolognina e con tutti. Aggiungo una nota tecnica, l'evento del 2 luglio sarà legato solamente a quella serata lì, ovvero notturna, il nome dell'evento si svolgerà dalle 18 in poi e sarà una mostra in via della Spina 3 al Civico 3, noi abbiamo due sere associazioni al Civico 3, avremo questa mostra solo per quella giornata lì, mentre la mostra, la seconda di luglio, che sarà una personale, sarà visitabile dal 9 al 16, dove il 9 ci sarà un vernissage e su prenotazione poi fino al 16 luglio invece sarà visitabile. E anche questo tratta di incisione, fotografia. Sì, la mostra è di Charlotte Van Bost ed è una mostra di fotoincisione, che è una tecnica molto particolare perché qui al Charlie ospitiamo un macchinario molto strano per l'incisione, che è il bromografo. Charlotte utilizza questa tecnica mischiando la stampa, la fotografia digitale alla stampa in fotoincisione sull'astra, quindi è molto, molto interessante e secondo me è una cosa molto particolare da vedere. Vi invitiamo tutte e tutti e tutto. Perfetto ragazzi, io vi ringrazio veramente per averci raccontato un po' più da vicino la vostra rassegna estiva e insomma ci vediamo negli spazi del Checkpoint Charlie. Grazie. Grazie a voi, grazie a te Rachele.